Sono le ore 8 e 31 minuti di venerdì 19 aprile 2024. E ho quasi finito di vedere la serie dedicata al giovane Berlusconi, che è in programmazione su Netflix da un po' di tempo. Voi sapete che chiunque si occupi di media e di industria dei media evidentemente non può che essersi formato negli anni d'oro del berlusconismo, e sicuramente io non faccio eccezione. C'è anche da qualche parte su YouTube una mia lezione sul berlusconismo, forse anche troppo lunga, ma devo dire che questa serie mi ha molto colpito, intanto per la qualità tecnica della realizzazione, sicuramente i migliori narratori di quell'epoca si sono adoperati per realizzare la docuserie più efficace, però ho molte perplessità sulla ricostruzione storica degli avvenimenti. E forse l'elemento che risalta di più è il fatto di raccontare la storia di un uomo che come imprenditore avrebbe fatto sempre tutto al servizio di se stesso, no? E senza invece mai chiedersi nelle varie fasi, la fase dell'imprenditore edile e poi dell'imprenditore delle televisioni, senza mai chiedersi se abbia invece compiuto spesso delle scelte, delle azioni al servizio di qualcun altro che era in grado evidentemente di determinarne i destini, no? Cioè nessuno, per esempio, dei tantissimi testimoni chiamati a raccontare le sue gesta, si è mai minimamente posto il problema dei vantaggi competitivi che lui aveva, no? Sembra sempre che discendano, questo almeno il messaggio sotto traccia, dalle sue indiscutibili capacità, quando molto spesso, per esempio nell'asta per gli spot, la prima che mi viene in mente, quella che gli permise di eliminare Rusconi e Mondadori dal mercato televisivo, il vantaggio competitivo era il fatto che c'era una botola dalla quale uscivano a comando soldi, cui nessuno chiedesse conto sull'origine, e questo accadeva in era televisiva, ma anche prima in era edilizia. Ci sono inchieste giudiziarie, insomma, che approfondiscono, e di questo non si parla mai. Il documentario dice che non si parla del Berlusconi politico, a me sembra che si parla del Berlusconi politico per la parte che fa comodo a questa narrazione, e invece si esclude quasi completamente il tema delle ragioni per cui, per esempio, alle organizzazioni criminali facesse comodo che esistesse un certo partito al governo e quindi dei legami con le organizzazioni criminali. Insomma, tutte cose che il documentario non approfondisce, nemmeno in ipotesi, no? Perché io non è che sto qua ad aggiungermi alla lunga lista dei certificatori di questi legami, no, assolutamente. Io dico soltanto che ci sono paesi come la Germania che negli stessi anni vedeva il premier dimettersi per una semplice indagine sui fondi neri, e parliamo di Kohl, mentre nel nostro paese, questa forse è un po' la vera grande differenza, non erano sufficienti nemmeno le inchieste giudiziarie per determinare una svolta di questo tipo. E poi l'altra cosa che non mi convince è questa ipotetica opposizione dell'immagine di un giovane Berlusconi virtuoso e di un vecchio Berlusconi decadente. Io credo che siamo sempre di fronte allo stesso Berlusconi e che tutti i problemi del vecchio Berlusconi, quindi anche gli scandali sessuali e questo focus sul tema della morale, che secondo me è abbastanza fuorviante perché i temi sono soprattutto economici, non è che la semplice e ovvia conseguenza di una serie di scelte molto precedenti. Per finire, non mi convince nemmeno questa sorta di ipotetica complicità tra un popolo disposto a farsi intrattenere e la sua capacità di accontentare questo popolo, perché io credo che l'impatto culturale è sempre qualcosa che le persone di responsabilità e di potere possono decidere, a prescindere dal marketing. Non è un caso che, per esempio, l'operazione La Senk non andò in porto, proprio perché la Francia era capace di opporre una propria visione dialettica del rapporto tra TV e cultura, no? Lo stesso Freccero nel documentario dice che la televisione francese, quando arriva La Senk, aveva un rapporto dialettico e non cannibale con informazione, cinema, teatro, mentre Berlusconi portava qualcosa che sarebbe stato un tritacarne di qualsiasi altro genere, diciamo anche di cultura popolare. Tutto sarebbe stato trasformato in televisione. Era questo che temeva Jack Lang, il ministro della cultura, che è uno dei testimoni intervistati. Questo forse è il passaggio più interessante. Se un paese ha gli anticorpi, in qualche modo può opporsi a operazioni come è stato da noi il berlusconismo. Poi naturalmente anche la Francia ha i suoi problemi, come sappiamo, però non è stata completamente attraversata da questo fenomeno di mediatizzazione della politica, secondo me molto molto più grave negli anni 80 da noi rispetto all'impatto, per esempio, che ha la rete oggi sulla politica e che invece viene continuamente raccontato ed amplificato. Poi magari vedrete anche voi questa serie e mi direte cosa ne pensate.